Mix 24 Estate di Giovanni Minoli. Bentornati su Mix 24 Estate. Ci siamo lasciati alle spalle gli anni 60, il decennio del boom economico, della rivoluzione culturale e del 68 con le sue ribellioni. Oggi il nostro viaggio tra musica e storia continua con un nuovo decennio, la stagione delle proteste, dei movimenti, della lotta per i diritti civili, ma anche della violenza, della paura e dei terribili anni di piombo. Sono insomma gli anni 70 e oggi iniziamo a raccontarli con Franco Schipani e Alessandra Fiori. Allora Franco, come inizia questo 70? Sì Giovanni, iniziamo con la Hit Parade. Al top c'è questo brano. La lontananza sai è come il vento che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Era la lontananza di Domenico Modugno. Ciao a tutti, sono Franco Schipani. E io sono Alessandra Fiori. Come avrete intuito, oggi vi raccontiamo l'Italia del 1970, anche attraverso la sua colonna sonora. Un paese che dopo essere passato per il boom economico, ha vissuto le lotte studentesche del 68, l'autunno caldo del 69 e si ritrova adesso a fare i conti con la strage di Piazza Fontana. Alla guida del paese c'è il governo monocolore democristiano di Mariano Rumor e gli italiani sono diventati 53 milioni e mezzo. Ma se nel 1961 le automobili erano 48 ogni 1000 abitanti, adesso nel 70 siamo arrivati a 189. E sai Franco, non è una cosa da poco, anche perché per quanto riguarda la musica, in questo periodo cominciano a diffondersi le autoradio, che non sono ancora quelle estraibili che ti porti dietro, hai presente, no? Che adesso, a forza di vetri rotti, hanno fatto la fortuna dei carrozzieri. Quindi mi stai dicendo che il problema del traffico è iniziato nel 1970? Bravo, esattamente quello. E quindi Franco, ma che musica esce da queste autoradio nel 1970? Alessandra, qui non ci sono incertezze, c'è una realtà. Si chiama Mina e questo è un brano di Mogol e Battisti. Io non ti conosco, io non so chi sei. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo sai quanto resterai, dura un giorno la mia vita. Insieme Mina, come siamo insieme io e te, insieme, cara Alessandra, insieme, come sono insieme sì. Anche Mogol e Battisti che hanno scritto questa meravigliosa canzone. Bello, bello, bello, ma scusami se non sbaglio. Non mi sbaglio. Esiste anche una versione cantata da Battisti, che a me, che tu sai, sono di Roma, di Rometta Bella, a me Battisti mi piace tanto. Lo vedi che non ti sei sbagliata? Sì. Esiste una versione anche di Lucio Battisti, però la versione più importante, quella più famosa, è quella di Mina, Alessandra. Eh beh, certo, perché quando c'è Mina non ce n'è per nessun altro. Hai capito. Ho capito, però quello che io mi chiedo e che chiedo a te, Franco, è: ma oggi Mina è considerata un mito, giusto? Perché Mina è sparita, Mina non canta più, Mina si nega. Ed è diventata un mito proprio perché è sparita, perché esatto, all'epoca Mina era soltanto una grande interprete, non era un mito. Poi a un certo punto si è ritirata nei suoi appartamenti e Mina è diventata un mito. Ecco, ma invece tornando sempre a Battisti, nel 1970, che altro canta? Che canta? Nelle top 100, 100 del 1970, Battisti ha ben 3 dischi in classifica. La mattina c'è chi mi prepara il caffè, questo io lo so. E la sera c'è chi non sa dirmi no. Cosa voglio di più? Hai ragione tu. Cosa voglio di più? Cosa voglio? Anna. Voglio Anna. Posso stringerti le mani come sono fedele. chiamale se vuoi emozioni. Anna, fiori rosa, fiori di pesco ed emozioni, Lucio Battisti, Alessandra. Emozioni, Franco, Alessandra, emozioni. Alessandra, ma quanto è bello fare un programma musicale quando puoi contare su dei pezzi così belli. Emozioni, te l'ho detto. Comunque, scusami, Mogol e Battisti scrivono per Mina, per Dalla, per lo stesso Battisti, ma qualche volta osano, cioè si prendono qualche rischio scrivendo per artisti meno affermati, meno sicuri? Non soltanto, ma li fanno diventare affermati, perché Battisti è un ragazzo, è musicista, gli piace salire con la chitarra, suonare, alla fine degli anni 60 ha fatto diventare famose l'Equipe 84 con dei brani stupendi, poi a Milano, quando l'Equipe 84 sparisce per motivi propri, incontra la Formula 3 a Milano in un clubetto e dice: Ma voi siete pazzeschi, ma voi dovete assolutamente suonare con me. La musica suona, io non la sento, la gente balla, io non la vedo, la luce rossa, la luce gialla, diventi bella, sempre di più. Folle, sentimento, sole giallo, sole nero, questa è la Formula 3 di Lucio Battisti. Ecco Franco, sole giallo, sole nero, giorni belli, giorni no. Ecco, in Italia è esattamente così, ci sono molti giorni sì e anche molti giorni no. Un giorno sì è quello in cui viene approvato lo statuto dei lavoratori, perché si raccolgono i frutti delle lotte studentesche, sindacali, dell'operaismo degli anni, della fine degli anni 60 e migliorano notevolmente le condizioni dei lavoratori. Vengono aboliti, non so, i licenziamenti arbitrari, ci sono maggiori tutele per le libertà politiche e sindacali in fabbrica, insomma. Quindi tutele in più, come stanno cercando di fare vuoi oggi. Vuoi dire crescenti, come oggi? Crescenti, sì, crescenti. Questo ancora non si sa, caro Franco, vedremo. Noi stiamo qui e aspettiamo. Okay. Comunque è un bel cambiamento, insomma. Un giorno sì, poi però ci sono anche moltissimi giorni no. E non so se sia un giorno buono o un giorno cattivo, ma tra il 7 e l'8 giugno di quell'anno si vota per la prima volta, vengono istituite le regioni e ci sono le prime elezioni regionali. Una pagina di storia del nostro paese. Per la prima volta gli italiani hanno votato per le regioni a statuto ordinario. Immagini che danno un senso immediato della parola democrazia. È il voto che rende tutti uguali. Il primo cittadino della Repubblica compie il suo diritto dovere nel seggio romano di Decima. Pietro Nenni, molte battaglie socialiste lo hanno visto protagonista, anche quella per le regioni. Il voto di Mimmo Modugno, cantante, attore, autore e uomo di successo. Questa volta lo vediamo con Franca Gandolfi nei panni di elettore. Il bravo e simpatico Nino Manfredi, barba da carbonaro, faccia di circostanza. Hai sentito, Franco? Ti abbiamo messo anche Mimmo Modugno che va a votare. Sei contento? Ma questi lasciano il palco di Sanremo, dice devo andare Vanno a votare. Tutti a votare, tutti a esatto. Votare. Si vota. Ma intanto, quella stessa estate, un'intera città, Reggio Calabria, entra in subbuglio, si rivolta perché non è stata designata capoluogo di provincia e tra alti e bassi questa rivolta dura diversi mesi. Ma la manifestazione più chiara del conflitto che è in atto tra la società e lo Stato, ma soprattutto all'interno dello Stato stesso, è a Roma, non a Reggio Calabria, e si realizzerà nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, quando si attua un tentativo di golpe. Italiani, l'auspicata svolta politica, il lungamente atteso colpo di Stato ha avuto luogo. Ecco, questo è il proclama che sarebbe stato trasmesso se il golpe di Borghese avesse funzionato. Già comandante militare durante la Repubblica di Salò e ora con la complicità di forze neofascisti e alcune parti deviate dello Stato, Borghese ha tentato di rovesciare la democrazia e realizzare un regime militare. Non ci è riuscito, per fortuna. Ecco Franco, ma in Italia chi canta, chi racconta in musica questo conflitto, questa tensione crescente tra società e Stato all'interno dello Stato? Franco, non mi guarda così. Facciamo un passo indietro, torniamo in un ambito più, diciamo così, a Sanremo, ok, che dovrebbe essere un po' lo specchio musicale del paese. Che succede quell'anno? A Sanremo nel 1970 invece il golpe riesce, perché finalmente Gianni Ravera e Ezio Radaelli, che avevano sempre litigato, si mettono d'accordo e fondano per la prima volta il vero management musicale italiano. Nasce questo famoso management. I concorrenti sono tutti italiani. E senti un po' chi ha vinto quell'anno e poi quello che durante l'anno ha venduto di più. Chi non lavora non fa l'amore, dammi l'aumento, signor padrone, così vedrai che in casa tua non lavora, non fa l'amore, cantato dalla coppia Adriano Celentano e Claudia Mori. Scusa Franco, permettimi, però è vero anche il contrario. Ah, perché vuol dire? Aspetta. Cioè, il contrario. Aspetta, allora, chi non lavora non fa l'amore, chi non fa l'amore Franco, non lavora. Cioè, è semplice, no Franco, molto, chi lavora non fa l'amore, ma andiamo avanti, non c'è problema. È complicato, è molto, molto complicato. Va insomma, bene. Poi è arrivato la prima cosa bella, che è arrivato secondo al Festival di Sanremo, però dopo ha venduto una marea di dischi in tutto il mondo e in tutto il Latino America in modo particolare. Scusa, ma tornando un attimo alla coppia Mori e Celentano, ma la Mori, Claudia Mori, che poi ora è l'agente di Celentano, se non sbaglio, no? Ma se lo dici tu. Mi sembra, dicono. Metti, così si dice. Alcuni dicono che sia l'artefice del suo successo, del suo personaggio. E quando è che hanno smesso di cantare insieme? Perché hanno smesso? Perché lei ha smesso di cantare? Innanzitutto ricordati che dietro un uomo di successo c'è sempre una donna che ha bisogno di un vestito nuovo. Cioè ricordo sempre questo. Comunque, la Mori non ha mai smesso di cantare, perché mentre Adriano Celentano in quel momento si stava così concentrando sul film, sulla sua carriera d'attore, lei ha fatto dei dischi importanti che sono andati in classifica. Ma poi Alessandra, scusa, qualcuno i soldi li doveva portare a casa, li porta Celentano, li porta Claudia Mori, alla fine del mese qualcuno deve pagare, cioè, un mutuo. Tu dici, in classifica uno ne basta. Ma ne basta, certe volte ci andavano anche insieme. E invece, scusami, scusa se insisto sui tuoi brani, la prima cosa bella che ho avuto... Wait. Calma, non ti piace intonata, lo so, me lo dicono tutti. No, potresti cantare magari un po' fuori, se ti allontani fuori dallo studio. Facciamo meno. Meno, meno e meglio. Mi piace. Comunque, tu devi sapere, forse lo sai, ma ho qualche dubbio, che la prima cosa bella è anche la colonna sonora, oltre che il titolo, di un bellissimo film di Verzì con Micaela Ramazzotti, che è del 2010, hai presente? 2010. No, hai ragione. Hai ragione, tempo. Tu non lo puoi conoscere, non lo puoi ricordare perché è troppo recente. Hai ragione. Pianeta. Però sai, bravo, è vero, sono lassù. Però Franco, non ti preoccupare, perché io subito dopo la viabilità ti riporto sulla Terra nel 1970. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, storia e musica. Io sono Alessandra Fiori e con Franco Schipani stiamo raccontando il paese attraverso appunto la storia e la musica. Che musica, Alessandra! E allora Franco, la coppia Mori e Celentano ha vinto Sanremo. Ma mi dici cos'altro è successo in questo festival del 1970? Beh, innanzitutto una bellissima canzone dei Camaleonti e una stupenda interpretazione di Patti Pravo, premiata dalla giuria dei giornalisti. Eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua. ci sarò ad asciugare. L'eternità dei Camaleonti e la spada nel cuore, Patti Pravo. La prima canzone l'ha cantata anche Ornella Vanoni, la seconda il leggendario Little Tony. Senti Franco, è bellissimo, interpretazioni eccezionali, però ti volevo dire, nel 1969 c'è stato Franco? Woodstock. Bravo, Woodstock. No, che poi tu ci insegni che non è Woodstock, è Monticello. È vicino a Woodstock. Brava, ti vedo preparare, brava Alessandra. Ho studiato Franco, mi sono preparata. Brava. Però tu hai detto anche che dopo Woodstock la musica non sarebbe stata più la stessa. E quindi che succede? Ho detto io. L'hai detto tu, Franco. Sicuro? L'ho sentito. Ci abbiamo prove? Ho studiato, ho sentito. Bene, intanto ti posso dire che i Beatles sono arrivati veramente agli sgoccioli. Non è che i Beatles, dopo che sono stati 12 anni in classifica con brani contemporaneamente, a un certo punto se ne vanno, ma ci lasciano due brani stupendi. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. The long and winding road. Continuo a dire che quando c'è dei pezzi così, la trasmissione, guarda, è veramente un piacere. Te la canti e te la suona, ma non sapevo che suonassi la batteria. Hai mai sentito? Ti ho visto come suoni la batteria, non ce la fai. Sono un batterista frustato, l'ho visto. Verdone, guarda, stessa storia. Hai detto un batterista era frustato. Sì, frustato da mia madre, che all'epoca diceva, che fai, suoni la batteria, fai matematica. Cioè, ero frustato. Frustato. Comunque, Lady B dei Beatles, The Long and Winding Road, sempre dei Beatles, leggendari, fantastici, Alessandro. Senti, ma leggendari, fantastici e soprattutto all'apice del loro successo. Però Franco, si separano. Ecco, ma quello che io voglio sapere è: Yoko Ono, la compagna di John Lennon, quanto c'entra veramente? Ovvero, cioè, cherche la femme, basta con queste storie che sempre appunto, quando si mettono le donne in mezzo poi gli amici litigano. Non è vero. Che non è vero per niente. Ma no, guarda, io ho conosciuto Yoko Ono a New York, l'ho frequentata in diverse occasioni, conosco i figli, Julian, quello del primo matrimonio, Sean, amico quello. Tuo? Ci prendi il caffè? No, ci siamo, no, diversi caffè, giorno. Non soltanto caffè, credimi. Però dico, insomma, è una signora tranquilla, una grandissima artista, una che prima di conoscere John Lennon già aveva fatto mostre, cantato, recitato, eccetera. Si volevano veramente bene, c'era veramente un grossissimo rapporto tra di loro, un grossissimo rapporto spirituale, Alessandra. Però loro si sono veramente separati. Comunque, John Lennon e Yoko Ono erano molto sposati, giusto? Sposatissimi, io credo che si siano sposati in tutti i riti, indù, cristiani. No, cioè, ma di sai tu... perché te lo chiedo, Franco? Perché nel 1970, nel dicembre del 1970, in Italia accade un fatto di un certo rilievo, diciamo. Si realizza un passaggio epocale, in grado di incidere in maniera definitiva sulla vita e sui costumi del paese. Ah, Madonna, che è successo? E forse tu avrai capito. No, perché, non ho capito. Perché a te ti ha riguardato un pochino. Vabbè, hai letto la mia storia personale, non quella di Wikipedia, ho capito. Vabbè, comunque, senti. Ti faccio capire così di cosa sto parlando. È passato quasi un secolo e adesso il divorzio è una realtà. La legge che porta i nomi del liberale Baslini e del socialista Fortuna è stata approvata dalle Camere con qualche emendamento. I cattolici debbono e possono continuare a considerare il matrimonio indissolubile. Il divorzio si offre soltanto a chi ha concezione laica del matrimonio. Gli ultimi dati d'Ocse, inoltre, del 20 settembre ultimo... Era Antonio Baslini, che così commentava l'entrata in vigore della legge sul divorzio, Franco. Una legge che nasce da una lunghissima discussione avuta negli anni precedenti e che molte altre ne porterà in quelli successivi. Poi ci sarà la definitiva conferma referendaria, ma di questo ve ne parleremo in seguito. Sì, ma tu continui a guardarmi con quella faccia come se il divorzio mi interessasse in modo particolare. Eh beh sì, Franco, pensa nel tuo caso. Quanta fatica risparmiata, quante cerimonie, quanti soldi, Franco, se fossi stato costretto a fermarti a una volta. Sì, ma tu sei così venale, capito? Io invece sono uno spirituale, io sono uno che nel matrimonio ci crede, tant'è vero che mi sono sposato 3 volte, capito? Ma infatti io ti riconosco una certa coerenza, te la riconosco, Franco. Oh, la coerenza, va bene. È una certa spiritualità anche, vero? Addirittura. Knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. Why in the world are you thinking of laughing in the face of love? What on earth you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Instant karma's gonna get you. Ed era Instant Karma di John Lennon. Ma tu lo sai perché l'ha scritta questa canzone, Alessandra? Secondo me me lo dirai. Perché è vero che lui in quel momento si stava occupando della sua spiritualità, del suo amore con Yoko Ono, ma era anche uno che in fondo, diciamo, qualche problemuccio economico l'ha risolto. Non era che uno che alla fine del mese doveva pagare mutui, la rata della macchina, non sapere mica come te che se non paghi l'affitto ti sbattono fuori. Gli affitti hai ragione, perché con te fuori da pluralità io. È un concetto che ti appartiene tanto tanto tanto per quello che dicevamo prima. Ecco, ma lo sai che nell'estate del 1970 17.000 italiani sono stati cortesemente invitati, ovvero costretti, a lasciare la Libia, che pure era la loro casa. Alle 15.30 oggi è giunta a Napoli la motonave Sicilia con i 200 profughi della Libia imbarcatisi giovedì a Tripoli. 7 bambini ho portato in Italia. In Libia, il 21 luglio 70, il Consiglio del Comando della Rivoluzione promulga una legge di danni della comunità italiana. Confisca di tutti i beni immobili e mobili ed espulsione di tutti i membri della comunità. Siamo venuti via con delle casse di legno fatte da noi, con qualche valigia, con i nostri indumenti, quindi non abbiamo portato nient'altro, perché quello c'era permesso di portare, insomma. Operai, agricoltori, artigiani e piccoli imprenditori. Quindi gli italiani sono costretti a tornare a casa, intanto Gheddafi continua a inseguire il suo sogno di un'unità araba. Ma intanto, Franco, negli Stati Uniti cosa succede? C'è la guerra in Vietnam, una guerra che va avanti da anni e anni e che non sembra prossima a finire. E proprio invece nel tentativo di risolvere il conflitto, che cosa fanno gli americani? Espandono il conflitto a Laos e Cambogia. E le città americane sono sempre più invase dai cortei, dalle manifestazioni, le piazze. Americani arrabbiatissimi. Tutte le piazze, ecco, guarda. Ma gli americani cosa cantano in quel momento e soprattutto a noi? Cos'è che non arriva di quello che cantano? Sicuramente, guarda, nel 1970 non è arrivato questo. Sono i Jackson 5 con I Want You Back. Ragazzi, qui tutta la famiglia al lavoro, cioè qui altro che telefono azzurro, cioè ragazzi andate lì, guadagnate il pane per tutta la famiglia. Quanti anni avete? 8, 9, 10, 14, 16, andate. Infatti hanno avuto un grossissimo successo, Alessandra. E ci credo. E poi? Poi che altro arriva, Franco? Che cosa arriva? Dunque, se guardiamo alle classifiche dei 145 giri più venduti dell'anno, notiamo subito che moltissimi sono italiani. Mix 24, musica e storia. She's got it. Sugar, ritrovati su Mix 24 Storia e Musica. Io sono Alessandra Fiori e con Franco Schipani, che forse smetterà di ballare, forse no, stiamo raccontando il paese attraverso la storia e la musica. Siamo nel 1970 e che cosa abbiamo ascoltato, Franco? Abbiamo ascoltato Venus degli Shocking Blue, Sugar Sugar, Arches Number One e Come Into My Life di Jimmy Cliff, che è stato il primo vero giamaicano che è andato sulle classifiche. E oltre a questi crema speakers, che non viene... Ah, crema speakers! Vuol dire cream. Anche questo neologismo tutto tuo, bellissimo. No, vuol dire creamed. In americano creamed vuol dire proprio volatilizzato, bruciato fino alle estreme conseguenze. Ah, non è come il romano stona crema. No, no. Ho capito, Franco. Comunque, guarda, devi essere chiaro con me. Guarda, adesso ti guardo negli occhi e ti propongo un paio di ballate indimenticabili. Grazie. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. Yesterday when I was young, ieri quando ero giovane. Roy Clark, Everybody's Talking. Harry Nilsson dal film Un uomo da marciapiede con John Voight e Dustin Hoffman. Scusami Franco, perdonami, ma io adesso ti rispondo così. Il popolo è minorenne, la città è malata. Hai studiato? Ad altri il compito Franco di educare. Franco si è preparato, Franco ha studiato. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione è civiltà. Non conoscevo questo tuo lato. Mi spaventa anche un po', Franco. Beh, guarda, però comunque non ce l'ho scritto davanti, lo sai? No, no, ho visto. L'hai studiato prima, l'hai imparato a memoria. Forse l'hai anche sbagliata. Il film preferito. Comunque l'avrete riconosciuta, era la colonna sonora di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, il film di Elio Petri con un enorme Jean-Marie Volonté, che nel 1970 si è aggiudicato il premio della giuria del Festival di Cannes e poi l'anno dopo, nel 1971, ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero. Ti piace? Mi piace perché all'epoca vincevamo tutti i premi. Cioè, non era una notizia quando vincevamo. Oggi, quando vinciamo, è una notizia. Comunque, Franco, mi sembra di capire che oltre che nel cinema eravamo fortissimi anche sulla musica. Cioè, almeno in casa, nelle nostre classifiche discografiche, eravamo i primi. Non come adesso. Adesso siamo invasi. Non è più così. O sbaglio? No, guarda, io lo vedo come un momento di riflusso, come una specie di pioggia prima dell'arcobaleno. Ecco, negli Stati Uniti, dopo la Summer of Love della West Coast, è appunto Woodstock, come ricordavi Monticello. Tu prima Monticello. Madonna, cosa è diventata precisa. Alessandra, non ti sopporto più. Ecco, allora c'era quella, la realtà dei Jackson 5, quella della famiglia di Michael Jackson. In Inghilterra, come abbiamo visto, i Beatles escono di scena, i Rolling Stones prendono un anno sabbatico. In Italia, oltre a Sanremo, l'estate è un appuntamento discografico importante e quindi i nostri sono più che mai agguerriti. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Settembre poi verrà, ma senza sole. E forse un altro amore nascerà. Settembre poi verrà, ma non ti troverà. E piangeranno solo gli occhi miei. Morire L'appuntamento Ornella Vanoni, settembre di Peppino Gagliardi e ovviamente Lady Barbara, Renato e i Profeti. Ma qualche successo sulle nostre spiagge arrivano anche in un'altra lingua. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Soon be summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. In the summertime, nel tempo d'estate, Mango Jerry, Hot Legs con Neanderthal Man e Spinning Wheels, Blood, Sweat and Tears. Tears. Senti Franco, scusa, però gli altri mostri sacri della canzone italiana, cioè a parte la coppia Mori, Celentano, di cui abbiamo parlato, ha vinto Sanremo, poi c'è Battisti, Mina e gli altri big. Quelli che si chiamano i big, che fine hanno fatto? È tutta questione di strategie, perché alcuni non vogliono più essere sovrapposti dai media, altri si rifiutano politicamente di far parte di un gruppo, quindi di presentarsi insieme a altri meno big o altre, come ti chiamano, nuove. Sembra tanto politica come scelta. No, dice no, troppa gente, guarda, okay. Io là non ci vado, proprio non ci vado. Però loro che cosa fanno? Fanno i loro dischi e si rivolgono specialmente, soprattutto, al loro soccolo duro. A chi se ne importa se adesso il mio cuore si spezza? Un giorno d'amore per me vale più di 100 anni. Sembrava capriccio e invece per lei sto morendo. Peccato che al mondo si vive una volta soltanto. Sparando, mano per te. Stanno morendo, mano per te. Ma per ognuno che cade giù muore una piccola parte di me. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se riguardo vedo i sogni che farò. Ma chi se ne importa, al bar si muore ed Occhi di ragazza, tutti e tre grandi hit del 1970 di Gianni Morandi. Gianni Morandi canta stanno sparando, stanno morendo, Franco. Ed è così, sempre più spesso si muore nelle strade, nelle piazze, nei bar. E l'incertezza e la paura diventano il pane quotidiano, Franco. È così, il terrorismo rosso e nero si organizza, si struttura ed è pronto a esplodere. Nell'ottobre del 1970 un volantino infatti annuncia la nascita delle Brigate Rosse e inizia il reclutamento. Le prime azioni in questa fase, nella prima fase, sono per lo più dimostrative, ma diventeranno presto un'altra cosa, tutta un'altra storia. E questa comunque è anche la stagione dei grandi misteri, come il caso dell'improvvisa scomparsa di un giornalista, Mauro De Mauro, un giornalista dell'Ora, che la sera del 16 settembre del 70 sta rientrando nella sua abitazione di Palermo e viene rapito e scompare. Mafiologo lo chiamavano perché a memoria poteva così fare un articolo, questo ha fatto questo, questo ha fatto quell'altro. Come se non fosse mai esistito. È finito così. Era Elda, la moglie di De Mauro. Il giornalista aveva 49 anni, aveva militato nella decima MAS del principe borghese, era stato autore di numerose e molto fastidiose interviste e inchieste e aveva appena iniziato a lavorare alla sceneggiatura di un film che poi sarebbe diventato famosissimo. Tu sai di cosa parlo? Il caso Mattei di Francesco Bravo, Rossi. Questo l'hai letto, Franco, non va tanto bene. No, mi sono preparato. Ti sei preparato? Va bene, diciamo che ti sei preparato, però sì, l'hai letto. Moltissime ipotesi comunque sono state fatte sulla scomparsa di De Mauro, ma l'unica certezza che ci rimane è che da quel 16 settembre di lui non si è più saputo nulla. Ma lo sai, Franco, cosa ho notato? Che tu, in questo 1970... non è che mi hai parlato molto delle band, dei gruppi. Ah, dei complessi, dici? No, poco, poco. Guarda, di complessi in Italia ce ne sono veramente tanti in giro ancora. Molti di loro sono anche di grande, grande successo. Però ecco, nel 1960, gli anni 60 in genere, si limitavano un po' a copiare quelle che erano le mode, le sonorità che venivano da fuori dall'Italia, specialmente i gruppi inglesi. Invece nel 1970... questi musicisti che fanno parte dei gruppi diventano una realtà e pensa che i fan, quelli italiani, cominciano a tappezzare le loro stanze finalmente di questi manifesti di gruppi italiani. Mi fermo qui, i Dick Dick, un pugno di sabbia, i Nomadi e la miniera famosissima dei New Trolls. Spegni l'accendino, cioè, spegnilo che lo sai, cioè, t'ho visto, spegni l'accendino. L'accendino, la cosa qui in studio sembrava un concerto da vivo come ti emozioni, guarda, è bellissimo. Comunque Franco, oltre alle novità tecnologiche, ce n'è una che ci interessa direttamente, perché il 1970, Franco, è l'anno in cui inizia un programma radiofonico che rivoluziona il mondo della radio. Tu sai di cosa sto parlando? Pendo dalle tue labbra. Ascolta. Buongiorno signori, benvenuti qui ad Alto Godimento. La formula con compagni vi saluta e vi auguro buon divertimento con l'antologia dei vecchi personaggi di Alto Godimento. Buon divertimento, questo è da stabilire. Comunque la formula è molto semplice. Certo, noi diciamo che non abbiamo peli sulla lingua e non siamo ammanicati con nessuno, no, quindi no, in realtà libertà, siamo libertà di non vedo perché non dovremmo dire quello che dicono tutti i rotocanti. Arbore, buon compagni, Alto Gradimento! Ma dico, ma che vuoi fare scuola sai, a me su queste cose? Ma io, guarda, me lo ricordo benissimo. Io quando uscivo da scuola, dal liceo scientifico Francesco d'Assisi, mi facevo tutto Viale della Primavera di corsa, non mi fermavo neanche al bar o a parlare con la compagna di banco, perché non mi potevo perdere neanche un minuto di questa splendida, splendida trasmissione che ha avuto un grossissimo successo. Beh, sì. Allora, invece... un successo che io non ho mai capito da dove viene e come ha fatto un gruppo americano blues, rock and roll, country western e che più ne ha più ne metta che non ho capito a piazzare nulla. Nel 1970 due dischi in classifica tra Domenico Modugno e Gianni Morandi. Just got home from Illinois, locked the front door. Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move. Hey, it is. Looking Out at My Back Door, a traveling band, the Creedence Clearwater Revival. Cioè, questi poi hanno un nome stranissimo, cioè, questo nome potrebbe essere, che ne so, un negozio d'abbigliamento, una vecchia cittadina del Midwest. Una fattoria. Non si capisce bene come hanno scelto questo, non è un nome facile. Come fai a vendere un gruppo con questo nome? È troppo lungo. Io però ti posso confessare una forse malsana passione per il country. A me il country piace. No, a me io l'adoro, però non riesco a capire come questi hanno piazzato due dischi, ripeto, tra Gianni Morandi e Domenico Modugno. Gli italiani completamente schizofrenici. Comunque sappi che io ho controllato su Spotify e questo brano è popolarissimo, Franco. Perché poi tutti questi pezzi continuano a vivere, riarrangiati, qualche volta li remissiamo, non ci inventiamo niente in pratica, nessuno si inventa niente, e comunque a volte vengono reinterpretati. E caro Franco, diciamoci la verità per una volta, no? E diciamocela. Che a volte quelli reinterpretati sono meglio, Franco, diciamocelo. Ma perché tu c'hai Spotify, come si chiama questa cosa? Io non so neanche che cos'è, capisci? Succede, capisci, Franco? Ancora mi pulisco i 45 questo ci separa per la vita, cioè purtroppo è così. Comunque sappi che succede appunto che la nuova versione supera l'originale. Ed è il caso, diciamolo, di Malika Ayane, con cui oggi chiudiamo e vi salutiamo. Ciao da Alessandra Fiori. E da Franco Schipani. Ci vediamo nel 1971. Ovvero domani. Domani. Okay. Domani. Ciao, ciao. Ho preso la chitarra e suono per te. Tempo di imparare, non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce, che canta il mio cuore. Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. Canta il mio cuore.